Radio 24 Reportage. Galileo, l'occhio d'Europa, di Gigi Donelli. 5, 4, 3, 2, 1. Dopo 10 anni di preparazione è dunque giunto il momento del lancio dei primi satelliti del sistema spaziale Galileo. Si tratta senza dubbio della più importante esperienza tecnologica e industriale in un settore che ha una grandissima proiezione verso il futuro e nel quale l'Europa per anni è stata di fatto vincolato al sistema GPS degli Stati Uniti. Un progetto molto costoso che con le difficoltà economiche generali ha visto una serie di revisioni e interventi. Infine, però, il lancio, dunque il 2011, come data di partenza della costruzione di un sistema orientato ai servizi, orientato, a differenza di quanto accaduto con il GLONASS, sovietico a suo tempo, russo oggi, e con il GPS, Galileo è un sistema civile orientato alle attività commerciali. Marco Falcone, System and Validation Manager di Galileo per conto dell'Agenzia Spaziale Europea. Allora, Galileo è davvero un salto nel futuro e perché? Galileo è un progetto molto importante per l'Europa perché l'Europa avrà finalmente il proprio sistema di navigazione in complemento al sistema GPS che è attualmente utilizzato da tutti. Avremo anche il nostro sistema che porterà un'accuratezza, una precisione superiore a GPS e insieme a GPS permetterà agli utenti di avere una disponibilità di servizi più ampia. Falcone, facciamo subito un esempio pratico. Dove cambia la situazione? Che cosa vuol dire essere più precisi? Vuol dire per esempio quando si viaggia in autostrada, tipicamente quello che succede col sistema GPS attuale non si sa su che corsia ci troviamo e a volte questo è molto fastidioso quando ci sono degli incroci complicati o cose del genere. Il nostro sistema si ha una precisione a livello del metro, per cui si sa esattamente su che corsia e su che svincolo l'auto debba andare, anticipando anche verso il futuro sistemi di trasporto automatizzati. L'automatizzazione dunque che richiede grande precisione. Per ottenere questo, da un punto di vista tecnico, abbiamo citato il lancio di 2 satelliti, il sistema però, quanti satelliti ha bisogno il sistema per operare pienamente? Il sistema completo è un sistema di 27 satelliti in orbita. Ora lanciamo i primi 2, nella seconda metà dell'anno prossimo la seconda coppia di satelliti, dopodiché il sistema verrà validato perché con 4 satelliti in orbita possiamo testare a terra la precisione del sistema e a quel punto comincerà lo spiegamento di forze da fine 2012 in poi con lanci su base trimestrale. Dove saranno posizionati i satelliti? In che orbita? Sono posizionati su 3 piani orbitali, essendo 27 satelliti, sono 3 piani orbitali a 23.000 km di distanza dalla Terra ci sono 9 satelliti per piano, per orbitale, per un totale di 27 satelliti. Galileo rappresenta anche una sorta di emancipazione, questo almeno nelle idee dell'Unione Europea, rispetto a quelli che sono appunto i sistemi che abbiamo citato. Allora sentiamo insieme Giuseppe Morsillo, capo dell'Ufficio Politiche Strategiche dell'ESA. Galileo è un programma che va ben oltre il fatto di essere un programma spaziale, è un punto di accumulazione di grossi interessi strategici a livello europeo perché è un programma che contribuisce all'indipendenza strategica dell'Europa attraverso il fatto che l'Europa in questo modo si dota di un sistema di navigazione di cui di fatto possiede le chiavi. Dicevo, la sua importanza nasce dal fatto che è un momento in cui si sono messi insieme l'Unione Europea e l'Agenzia Spaziale Europea per fornire un qualcosa che va oltre il progetto, ma che è soprattutto servizi. Servizi al cittadino, servizi per una quantità di applicazioni smisurata che vanno dalle applicazioni evidentemente legate al trasporto, sia su terra, stradale, ferroviario, al trasporto aereo, trasporto marittimo, ma che attraverso una varietà di applicazioni possono arrivare anche alla scienza, perché anche attraverso la distorsione del segnale satellitare si hanno delle informazioni che sono utili in campo scientifico. Quindi si tratta di un programma che evidentemente quindi fornisce servizi ai cittadini, un avanzamento significativo nella tecnologia, indipendenza strategica, un mare di servizi e per il quale l'analisi costi-benefici è certamente forse tra le migliori e più interessanti che ci possono essere, diciamo, come spinta all'innovazione tecnologica. Marco Falcone, gli attuali sistemi GPS, i nostri strumenti quotidiani di rilevazione, funzioneranno con i dati che arrivano invece dal sistema Galileo? Sicuramente, abbiamo interagito moltissimo con i nostri colleghi americani del GPS Program Office per costruire un sistema europeo completamente interoperabile e compatibile col sistema americano. Si tratta in pratica come quando utilizziamo la telefonia mobile, più rete di copertura abbiamo, meglio è. In questo caso abbiamo fatto in modo di avere lo stesso tipo di frequenze per permettere agli utenti GPS di utilizzare il sistema Galileo in maniera seamless, aumentando il servizio, quindi in maniera completamente interoperabile. E dunque, su quale copertura potrà contare Galileo? GPS, d'altra parte, sta per Global Position System. Galileo, in realtà l'acronimo è uguale, Galileo Position System, ma quale copertura sul pianeta? La copertura globale, ci sono in questo momento una trentina di satelliti GPS complementati dai 27 satelliti Galileo, si tratta di una rete enorme, aumenterà quindi la precisione per l'utente sempre di più che approfitterà di un sistema di più sistemi allo stesso tempo a vantaggio di servizi che, come detto da Morsiglio, si espanderanno sempre di più nel futuro. In tutto questo il lancio della prima coppia avviene attraverso un lanciatore russo. Questo significa che anche sul fronte GLONASS, che lo ricordiamo è l'altro sistema, quello appunto nato al tempo dell'Unione Sovietica, quindi nella Russia oggi, c'è integrazione con il Galileo? Sì, dal punto di vista anche c'è integrazione col sistema GLONASS. In particolare prevediamo di trasmettere agli utenti delle informazioni per poter utilizzare il sistema Galileo insieme al sistema GLONASS. Questo fa parte dei nostri progetti. Insomma, una connessione davvero globale. Torniamo sul fronte dei servizi. Abbiamo parlato dell'automotive. C'è qualche altro spunto che ci può segnalare su questo fronte? Sì, insieme alla Commissione europea abbiamo preparato un sistema che possa permettere di avere dei servizi avanzati già a partire dal 2015, quando avremo 18 satelliti. Prima di avere 27, i servizi si concentrano su un servizio di tipo open service, quindi per il mercato di massa tipicamente automobilistico, trasporti automobilistici e ferroviari, poi un sistema cosiddetto public regulated che è orientato alle forze di polizia, alla protezione civile, con un controllo di accesso tramite chiavi che permette un sistema sicuro, e poi un terzo tipo di servizio di search and rescue in collaborazione col sistema COSPA SARSAT, che viene già utilizzato ora a bordo delle imbarcazioni per permettere servizi di search and rescue tipicamente a livello globale. Possiamo immaginare dunque attraverso questo sistema non solo automobili sempre più informate, capaci di interagire tra loro, ma anche un sistema di trasporto aereo in qualche modo organizzato su base satellitare? Sì, sempre di più, direi in particolare cominciando non solamente dai trasporti, ma anche per esempio applicazioni riguardanti il tempo e la frequenza. Se pensiamo a transazioni bancarie, se pensiamo all'interconnessione tra le reti energetiche che hanno bisogno di un tempo, di una frequenza, informazione di tempo molto precisa a livello del miliardesimo di secondo, è chiaro che un sistema preciso come il nostro permette uno sviluppo anche non solo dal punto di vista del posizionamento, della navigazione, ma anche delle reti globali di distribuzione che hanno bisogno di un tempo molto preciso. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.